Allora, sono le 8 e 7 minuti di giovedì 8 febbraio 2024 e mi sono arrivate delle domande sull'ultima registrazione relativa alla città lineare. E rispondo in particolare ad Agnese, mi sembra così di rispondere un po' a tutti, che intanto mi chiede che cosa penso sia invece la città come rete, no? Beh, è abbastanza semplice per esclusione confrontare i due modelli, no? La città lineare è una sequenza, diciamo così, di agglomerati lungo una strada consolare, quindi immaginate come il braccio di un albero e poi i rami laterali che però non vanno da nessuna parte, quindi è un pezzo di città che non collega, ok? E quindi non crea rete. Tutto dipende dalla capacità di arrivare alla strada principale e quindi diciamo che è un sistema urbano costruito su un complesso di leve di potere, quindi di rapporti di forza legati alla possibilità maggiore o minore di essere collegati con questa arteria principale. E mentre è chiaro che se guardiamo anche sulla mappa quartieri come l'Esquilino, come Prati, Di Castello, no? Della Vittoria, bisognerebbe dire, non delle Vittorie, della Vittoria, lo vedete sulla mappa, vedete una città reticolare, quindi una città che fisicamente rappresenta un ecosistema dove ogni nodo ha un valore in sé e quindi dove c'è la possibilità, diciamo così, di trovare il proprio spazio senza obbedire, diciamo così, alla gerarchia della strada principale. È anche una bella metafora perché ricorda i modelli economici. Ci sono i modelli lineari della catena di Porter, dove tutto dipende da un'unica relazione di potere, che è appunto quella con chi mette in piedi l'industria e al massimo sviluppa un indotto, però tutti dipendono da questo singolo soggetto. Invece gli ecosistemi, diciamo, economici moderni sono delle reti dove ciascuno può trovare il proprio ruolo, nessuno è indispensabile, però tutti hanno spazio se sono utili, fondamentalmente. Questa è un po' la differenza tra la città reticolare e quella lineare, che, ripeto, non è una mia invenzione, ma anzi è stata teorizzata la prima volta da Arturo Soria Imata addirittura nel 1882, se qualcuno vuole fare delle ricerche. E poi l'altra cosa che mi chiede è cosa penso invece della città in 15 minuti. E su questo io ho già espresso opinioni abbastanza così minoritarie, mi verrebbe da dire, che mi sono anche costate l'accostamento addirittura ai complottisti, non lo so perché, ma certe volte mi sembra che ragioniamo in modo identitario. Comunque, allora, io credo che la città dei 15 minuti, se è qualcosa che viene adottata in posti dove tutti i quartieri sono collegati da un trasporto pubblico efficiente, no? Per esempio come è stata implementata a Barcellona, allora mi sta anche bene, no? O anche, insomma, ipoteticamente, immaginiamocela a Parigi. Quindi l'idea, no, di avere tutti i servizi a portata di uno spostamento così breve, questo così ci viene venduta, no, può funzionare. Io sono molto molto sospetto invece sul successo che ha avuto la città dei 15 minuti come argomento, per esempio, delle ultime amministrative in una città come Roma, dove il trasporto pubblico non assicura affatto il collegamento veloce tra tutti i quartieri di questo territorio così sterminato come a Roma. E quindi, appunto, lasciando le persone nelle mani fondamentalmente nel mezzo privato, a quel punto la città dei 15 minuti, per quanto mi riguarda, configura una ghettizzazione, cioè un sistema che toglie ai soggetti più fragili dal punto di vista logistico il diritto alla città, no? Che è poi, diciamo così, il fenomeno che già un po' si vede comunque, no? Anche senza introdurre, diciamo così, particolari operazioni di pianificazione urbana. Cioè, è chiaro che per quanto l'auditorium e il Maxi siano istituzioni, per esempio, al servizio di tutta la città, addirittura mi verrebbe da dire di tutto il paese, però comunque sono luoghi prevalentemente frequentati dai fortunati che abitano nei quartieri vicini. Perché? Perché l'idea di dire sì, però anche a Tor Bella Monaca abbiamo fatto il teatro, già no, in qualche modo sembra un alibi per dire tu te ne stai lì buono e ti prendi ciò che abbiamo pensato per te. E questo è anche una negazione di qualcosa che forse non è un diritto, ma è un desiderio, una legittima aspirazione di alcune persone che vivono a Roma, che è quello di girare la città senza, diciamo così, essere schiavi della destinazione d'uso dei luoghi, no? Cosa che abbiamo imparato a fare abbastanza bene, credo, durante la pandemia, quando le destinazioni d'uso erano, tra virgolette, chiuse. E quindi bisogna, sì, cioè erano chiusi musei, cinema, teatri, spesso anche uffici. Si poteva cominciare a uscire di casa, ma non sapevamo cosa fare, no? Perché era tutto un po' deserto. E in quella fase, secondo me, molto educativa, quello che abbiamo imparato è riuscire noi a dare un senso ai luoghi. E quindi spostarci, superando completamente sia la logica dei 15 minuti, ma spostarci proprio per la deriva, diciamo così, situazionista, che è anche questa una forma legittima di utilizzo, per esempio, del tempo libero. Decidere, per esempio, di andare in un quartiere con cui non hai nessuna relazione economica semplicemente per scoprirlo, per entrare in contatto, per capire e conoscere meglio la città. Giustamente un altro architetto importante, Carlo Purini, dice che è impossibile conoscere la città, però è possibile conoscerla meglio. Ok, e quindi capire qual è il tuo ruolo e il tuo rapporto con i problemi sociali, cioè anche renderti conto del perché sei fortunato e del perché sei sfortunato, e quindi creare anche le condizioni del confronto e, volendo, anche del conflitto, perché la città non è soltanto evidentemente un luogo dove, non è la città del solito Tommaso Campanella sempre e soltanto, cioè la città può anche essere un luogo dove dal conflitto nasce, per esempio, una conquista, un diritto. Ecco, però per farlo bisogna rendersene conto, e per farlo bisogna anche poterla girare senza dire devo andare a fare una commissione, devo andare a fare shopping, senza farsi dire da un cinema che quello è un cinema e che quindi devi andare lì per vedere un film, eccetera, eccetera. E vabbè, come al solito mi sono allargato, però penso di aver vagamente risposto. Questo forse sì è uno dei primi deliri che si possa definire tali, ma insomma ci siete abituati.